America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. He does not see eye to eye with the German Chancellor who is hosting the G20, but all eyes will be on that meeting with President Putin. Avete sentito? Beh, non l'avete sentito solo qui ad America 24, ma a partire da ieri e nella giornata di oggi è iniziato formalmente ad alcune ore il vertice del G20 di Amburgo. La Merkel, la cancelliera Angela Merkel, ospita 19 leader mondiali, da Putin a Xi Jinping, al presidente Trump, al nostro Gentiloni, e poi la lista ovviamente continua, per un appuntamento molto importante. Un appuntamento molto importante perché non si parlerà solo di economia, anche se di facciata il G20 era nato come un vertice economico, ma si parlerà soprattutto di politica, perché ci sono troppe cose che si stanno muovendo. C'è la sfida della Corea del Nord, c'è la sfida della Siria, c'è il vertice bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ma non voglio continuare a parlare da qui, da New York, di questo vertice, perché ho con me in linea da Amburgo Paolo Valentino. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, ma cominciamo con l'atmosfera. Amburgo che tu conosci perché sei stato corrispondente della Germania, quindi conosci non solo il paese ma la città. Com'è Amburgo? Come sta vivendo questo vertice storico? Beh, una città in stato d'assedio ovviamente, con migliaia di poliziotti, una città, come sappiamo, ribelle nel suo DNA, come dimostrano i 12.000 dimostranti. In questo senso la Merkel ha voluto il vertice ad Amburgo anche per dimostrare che è possibile farlo perfino in una delle città più irrequiete della Germania. Il vertice è visto con grande attesa, soprattutto l'opinione pubblica tedesca. La Merkel ha puntato molto su questo vertice perché sappiamo che è l'ultimo appuntamento mondiale prima della campagna elettorale che si svolgerà in settembre. Infatti lei avrebbe voluto in realtà svolgerlo più avanti, più a ridosso dell'appuntamento elettorale, ma comunque, certo, lei che media fra i grandi del mondo è l'immagine più importante da trasmettere alla iconografia della sua campagna elettorale in settembre. Tu hai conosciuto la Merkel, conosci la dinamica di Donald Trump. Ecco, secondo te, fra i due, si sono incontrati ieri sera del resto, ecco, c'è un problema vero oppure è soltanto una questione di facciata? A mio avviso c'è un problema vero, è legato al carattere dei due. La Merkel ha una formazione scientifica, è una molto fredda, è una che si legge i dossier, è una che quando va ad un vertice conosce i temi e i dossier meglio dei suoi sherpa, e mentre di fronte c'hai un leader che fa della emotività, della imprevedibilità e anche della sua megalomania un po' la sua cifra, per cui siamo veramente agli antipodi sul piano del carattere, sul piano dell'approccio politico e sul piano della conoscenza spicciola dei dossier. Ecco, sì, io devo dirti che poi ho seguito un pochino nel dopo anche il primo viaggio in Europa, e da Washington c'è stata un po' una marcia indietro, cioè a Washington ci si rende conto che l'America ha bisogno della Germania, Donald Trump ha bisogno della Merkel, anche se ci sono queste difficoltà di carattere, per cui io credo che in fondo anche la Merkel, forse al di là delle differenze emotive, dovrà a un certo punto rendersi conto che il dialogo con Washington è una componente importante del dialogo transatlantico, del dialogo globale, no? Che dici? Ma io credo che la Merkel non solo se ne renda conto, ma lo vorrebbe con forza, perché ricordiamo che la Merkel, che ha vissuto in Germania Est, che è cresciuta nella Germania Est, ha sempre guardato all'America come al vero riferimento di libertà, e quindi in questo senso la Merkel nutre una certa delusione nel fatto di non avere un'amministrazione americana sulla quale poter contare per affrontare i grandi dossier del mondo. Ecco Paolo, tu hai parlato dell'Est. Trump ha fatto un discorso in Polonia, un discorso in cui ha cercato di evitare accuratamente di parlare della situazione politica interna a Varsavia, che sappiamo c'è un governo e una forza politica di destra, un governo populista, nazionalista, ma ha rilanciato sull'articolo 5, ha detto no, noi l'articolo 5, cioè all'interno della NATO, cioè che se un paese viene attaccato è come se fossero attaccati tutti, resta ed è valido, e dunque ha chiarito questo punto. Lo ha chiarito alla vigilia del suo incontro con Vladimir Putin, che, come dicevo, sta avvenendo adesso. In questo senso io credo che lui abbia colmato una lacuna nel confermare l'impegno dell'articolo 5 la lacuna che era emersa in modo anche abbastanza clamoroso al vertice NATO di Bruxelles, dove aveva ignorato questo aspetto, suscitando anche allarme nei paesi dell'est, dalla Polonia ai Balti. Ecco, ma questo cosa significa nel vertice con Putin? Arriviamo a Putin, perché è il clou. Se posso dire, Mario, nel vertice con Putin questo significa poco, perché le due cose vanno separate. Nel vertice con Putin quello che conta è innanzitutto l'alchimia fra i due personaggi. È la prima volta che si incontrano, parliamo di due leader fortemente egocentrici, parliamo di due leader che si, diciamo, ammirano a vicenda per essere due uomini forti, no? È stato sempre, lo ha detto più volte Trump, lo ha detto più volte Putin e via dicendo. Quindi prima di tutto bisognerà vedere quale chimica verrà fuori da questo incontro. Poi ovviamente ci sono due aspetti, quello problematico dell'Ucraina, di tutti i contrasti che esistono con la Russia, e l'aspetto potenzialmente costruttivo che è quello della Siria, di come le due principali potenze impegnate nella crisi siriana riusciranno a coordinarsi in modo da produrre uno sforzo positivo. Però c'è un altro aspetto dal quale potremmo avere delle sorprese positive. Nelle settimane scorse un gruppo di ex ministri della difesa, e soprattutto di cui faceva parte anche Sam Nunn, che è il guru storico dei negoziati sul disarmo in America, ex senatore democratico, hanno invitato Putin e Trump a approvare una dichiarazione sulla guerra nucleare, cioè dire che una guerra nucleare non può mai essere vinta e non dovrà mai essere combattuta, come segno di buona volontà sul disarmo nucleare. Questo potrebbe essere un segnale che la tensione che pur rimane fra Russia e America può in un certo senso essere messa sotto controllo, messa in sicurezza da una dichiarazione di questo genere, e chissà anche la creazione di un gruppo per la gestione delle crisi fra Russia e NATO di cui si è parlato nelle settimane scorse. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Paolo Valentino, sempre con noi, microfoni di America 24. Paolo, cosa ti ispira da Amburgo, dalla Germania, da questo vertice multilaterale del G20? Ma direi una contaminazione anglo-tedesca, per cui McDonough dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, però nella versione di Frank Sinatra. Mac the Knife di Frank Sinatra, tratto dall'opera I Tre Soldi di Bertolt Brecht. Hey, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it way out of sight. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.